Il fabbro ferraio. Dino e Mary abitavano con i loro genitori e con il nonno in una fattoria vicino alla fucina del fabbro ferraio. Il fabbro si chiamava Carlo ed era un amico di famiglia. Quando non avevano niente da fare, Mary diceva al fratello: «Vieni, Dino, andiamo a fare visita a Carlo». Amavano tutti i rumori della fucina: il soffiare dei mantici, il martello sull'incudine, il suono che si produceva quando Carlo prendeva con una pinza il ferro di cavallo, e poi il sibilo eccitante del metallo infuocato immerso nell'acqua. Dino decise che da grande avrebbe fatto il fabbro. Certo che per sapere fare i ferri di cavallo ci voleva grande abilità. Poi, un bel giorno, Carlo gli dette il suo martello, esortandolo a battere il ferro. Ma era così pesante che Dino riusciva a malapena ad alzarlo. «Accipicchia, come deve essere forte un fabbro!» osservò. Carlo sorrise. «Devi crescere ancora un po', ragazzo mio!» lo consolò e gli riprese il martello di mano, alzandolo come se fosse una piuma. Un giorno Vittorio, il vecchio cavallo della fattoria, perse un ferro. E siccome quella mattina tutti avevano un grande affare, il nonno chiese a Mary e Dino di condurre il cavallo dal fabbro a farlo ferrare. Mary e Dino erano al settimo cielo e non se lo fecero dire due volte. Quando arrivarono alla fucina, Carlo era occupato con un altro cavallo e mentre aspettavano si divertivano a guardare come il fabbro alzava una zampa del cavallo, prendeva in mano lo zoccolo e conficcava i chiodi nel nuovo ferro. «Fa male, Carlo?» chiese Dino. «Non più di quando tu ti tagli le unghie, naturalmente se uno sa fare il proprio lavoro». Quando ebbe finito di sistemare il nuovo ferro sullo zoccolo del cavallo, dette all'animale una pacca affettuosa dicendogli: «Ecco, paziente amico, ora starai più comodo». Ora toccava a Vittorio. Il cavallo era stato ferrato altre volte e Carlo aveva già pronta la misura esatta di ferro che serviva. Così, in un baleno, l'animale fu ferrato a nuovo. «Grazie, Carlo», salutarono i ragazzi. Mary, proprio come il nonno le aveva insegnato, prese le redini e fece girare lentamente il cavallo tenendosi lontana dalla portata dei grandi zoccoli. «Brava, Mary, dirò a tuo nonno che può essere orgoglioso di come sai maneggiare quel cavallo». Mary e Dino, molto soddisfatti, riportarono piano piano il vecchio Vittorio alla fattoria.